devo averti per me. Ma tu sai che non è possibile, ti farei solamente piangere. Dolcemente vorrei sorriderti senza dirti la verità. Questa è la felicità, ma lo sai, dura solo un attimo, lascerà solamente lacrime. Ma vorrei che tu non piangessi per me, che tu fossi felice con me. Non ho visto nessuna più bella di te, non ho avuto nessuna più dolce di te. Volevo averti per me, ma per te non saprò che piangere, anche se vorrei darti l'anima, ma se sei infelice cercami amor, ti darò tutto quello che ho.